Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, il ritorno di Jonathan Coe alla commedia. Il nuovo romanzo è ambientato durante l'Expo del 58 in Belgio. Valerio Magrelli vince il premio Mondello con Geologia di un padre. Parte Masterpiece, il primo talent dedicato a chi vuole diventare scrittore. Si intitola Expo 58, l'ultimo romanzo dell'inglese Jonathan Coe, pubblicato in Italia come sempre da Feltrinelli. E il titolo dice molto sulla trama, è infatti ambientato nel 1958 durante l'Expo Universale in Belgio. Protagonista un uomo, Thomas, che riceve l'incarico dal governo inglese di organizzare il padiglione della Gran Bretagna all'Expo. Nei ringraziamenti proprio che ci sono alla fine di questo libro è lo stesso Jonathan Coe a spiegare come è nata l'idea della trama. I blame the Italians for making me write this book because I've been asked by so many Italian journalists. Incolpo gli italiani per avermi fatto scrivere questo libro. Molti giornalisti italiani si chiedono se io mi consideri britannico o europeo e come veda il rapporto tra Gran Bretagna e Europa. Ho sentito che fosse arrivato il momento per scrivere questo libro. Ho cercato di trovare il modo per avvicinarmi a questo tema, cioè come gli inglesi considerano l'Europa, e non ho trovato niente di attuale che mi attirasse. Poi una giornalista in Belgio mi ha portato a vedere l'Atomium, e l'ho trovato una costruzione bellissima e affascinante. Ha iniziato a spiegarmi l'intera storia dell'Expo 58, e ho realizzato che questo, a distanza di 55 anni, aveva ancora da dirci molto sugli ideali europei e sull'atteggiamento dei britannici riguardo questi ideali. È sembrato il tema perfetto per il libro. Alla fine che risposta si è dato alla domanda dei giornalisti italiani? Cioè se lei, ma soprattutto gli inglesi, si sentono ancora esclusivamente britannici o europei? I can't speak for other writers, I can only speak for myself. And you know, it's quite unfashionable today in Britain to declare your identity as being English. Non posso parlare per gli altri scrittori, ma solo per me stesso. È abbastanza fuori moda oggi in Gran Bretagna dichiarare un'identità inglese, ma è qualcosa che io sento ancora fortemente. È un istinto dal quale a volte provo a fuggire senza riuscirci. Allo stesso tempo sento una forte affinità con la tradizione europea in letteratura. E ciò che penso di avere di diverso rispetto ai miei colleghi contemporanei è forse che loro si sentono più anglo-americani, ma nel mio caso sono stati i classici europei ad avermi ispirato, non i grandi classici della letteratura americana. Venendo proprio alla trama di questo romanzo, Expo 58, il protagonista è Thomas, un uomo che ha un incarico di governo e deve stare appunto a Bruxelles per l'Expo del 1958 per 6 mesi. Da qui nascono una serie di vicende, scrive delle lettere alla moglie rimasta in Gran Bretagna, sembra poter avere anche delle avventure con altre donne, insomma vive un'avventura molto particolare. Però Thomas sembra anche molto ingenuo nei confronti di tutto quello che sta accadendo intorno a lui, dal punto di vista politico e sociale. È così? Yes, Thomas is very naive, and the book in a way is about naivety, not just naivety in his personal emotional life, but also in his understanding of politics and world affairs. Sì, Thomas è molto naïf e in un certo senso il libro è puntato sulla sua ingenuità. È ingenuo non solo per quanto riguarda la sua vita privata e affettiva, ma anche riguardo alla capacità di comprendere la politica e gli affari internazionali. Nonostante il libro sia ambientato nel 1958, mi sembrano temi contemporanei e molto attuali. Gli eventi degli ultimi anni, in particolar modo la crisi economica del 2008, mi hanno fatto sentire molto ingenuo e molto stupido. Forse non mi sono preso la briga di capire come le persone nel mondo della finanza mondiale si stessero comportando e quali rischi ci facessero correre. L'ingenuità di Thomas è esagerata con effetti comici per entrare in empatia con lui. Il 1958 era l'anno, insomma, il periodo in cui stava nascendo l'Europa, la comunità europea, ma era ancora il periodo della Guerra Fredda. Infatti in questa Expo di Bruxelles si nota come i sovietici cercano di carpire segreti agli americani e viceversa. E infatti Thomas finisce un po' in un giro di spionaggio reciproco. La Guerra Fredda è ancora oggi un tema interessante per uno scrittore. Well, I think the Belgians were very mischievous in 1958 because they conceived of the Expo as a great. Penso che i belgi siano stati un po' dispettosi nel 1958. Tutti consideravano l'Expo una grande occasione di riconciliazione, di unità, di comunicazione tra differenti nazioni. Ma tra America e Unione Sovietica c'era la Guerra Fredda. E il Belgio decise di mettere i due in padiglioni, americano e sovietico, vicini, quasi per gioco, per causare guai. Diciamo che la Guerra Fredda è stata anche un pretesto per mettere in risalto l'ingenuità del protagonista, di Thomas, che di fatto se l'è bevuta. È veramente convinto che quegli ideali di riconciliazione siano realizzabili. È fin troppo ottimista. Non capisce che c'è una guerra fredda, che si combatte con gli ideali e con la tecnologia. E non lo capisce fino alla fine del libro. And you know he doesn't understand that until the very end of the book. Infatti Thomas è un personaggio che da un certo punto di vista fa molta tenerezza, insomma leggerlo oggi nel 2013 è un personaggio appunto dall'ingenuità tenera. Tutto il contesto che leggiamo nel suo libro ai nostri occhi sembra superato da secoli, invece sono passati solo pochi decenni. Sappiamo che ci sarà un Expo in Italia nel 2015 a Milano, ci sarà un contesto completamente diverso. Yes, it's you know a lot of things have changed in the last 55 years. I think the world has become a lot more cynical and it's very difficult to stage an Expo. Certo, molte cose sono cambiate negli ultimi 55 anni. Il mondo è diventato molto più cinico. È molto difficile realizzare un Expo ora con gli stessi ideali e l'ottimismo ingenuo che c'erano nell'Expo 58. Io non ho suggerimenti per gli organizzatori dell'Expo milanese, se non che questo tipo di evento deve essere in qualche modo idealistico. So com'è la situazione in Italia. C'è molto cinismo riguardo alla politica e all'economia. E credo che questo sia un grande pericolo per lo Stato, quando le persone diventano completamente ciniche nei confronti dei politici, degli economisti e delle persone che controllano le loro vite. Lo spirito delle persone inizia a morire. Spero che gli organizzatori possano trovare una soluzione per fornire un'alternativa, un correttivo. An alternative to that, a corrective, a counterbalance. Lei in genere analizza in modo anche caustico ed ironico, ha analizzato nei suoi romanzi la situazione politico-sociale della Gran Bretagna, in particolar modo degli anni Ottanta, il periodo thatcheriano. Perché in questo romanzo ha scelto la fine degli anni Cinquanta e non ha fatto invece un'analisi attuale della situazione inglese? I felt it was time that I wrote a comedy, a pure comedy. Ho sentito che fosse il momento per scrivere una commedia pura. Un libro per intrattenere le persone con un senso di leggerezza. Guardandomi intorno non ho trovato spunti per scrivere un libro così, ambientato nel 2012 o nel tempo presente. Mi è sembrato necessario allontanarmi dai giorni odierni. Ovviamente in questo libro non descrivo i veri anni 50. È un periodo antecedente alla mia nascita, quindi come qualsiasi tipo di romanzo, è frutto di fantasia, fantasia dell'autore. Per me è stato liberatorio. Mi ha permesso di dare forma alla mia creatività e immaginare tempi che non ho mai vissuto. To produce my own creative imagining of a time which I never experienced myself. Mi ha stupito un po' l'incipit di questo romanzo, perché è proprio così secco, come se fosse una cronaca. L'incipit, si sa, è la cosa a cui un autore lavora di più, quindi è sicuramente voluto. Come mai ha voluto iniziare con una cosa così, con un linguaggio quasi di cronaca e non magari più letterario? Because I wanted to capture something of the formality of the 1950s, something perché volevo cogliere la formalità tipica degli anni 50. In quel periodo non si era molto rilassati, soprattutto nei circoli di un certo livello. C'era formalità nel comportamento e nel linguaggio. Quando ho letto il documento del comitato inglese che programmava il proprio contributo per l'Expo, il linguaggio mi sembrava molto asciutto, formale. Volevo ricostruire il contesto prima di farvi incontrare Thomas per la prima volta, per capire in quale mondo stavamo per entrare. Lei in un'intervista ha detto che è più amato all'estero che non in Gran Bretagna, soprattutto in Italia. Come mai, secondo lei? As I understand it, one of the reasons Italians like my books is because they feel that I explain Englishness to them. Per quel che ho capito io, uno dei motivi per cui i miei libri piacciono agli italiani è perché spiego loro cosa significa essere inglesi. Gli inglesi non hanno bisogno di qualcuno che spieghi loro chi sono loro stessi. Forse i miei connazionali pensano di non avere molto da imparare dei miei libri, come invece fanno le persone di altri paesi. E questo era Jonathan Coe, ora in libreria con Expo 58, pubblicato da Feltrinelli. Dello scrittore inglese ricordiamo anche romanzi come La famiglia Winshaw, La banda dei Brocchi e poi, se permettete, insomma, il mio preferito, che è La casa del sonno. Veniamo ora al premio Mondello assegnato ieri a Palermo. Il Super Mondello del 2013 è stato assegnato a Valerio Magrelli per il romanzo Geologia di un padre, pubblicato da Einaudi. In finale con lui erano arrivati Andrea Canobbio con Tre anni luce, Feltrinelli, e Walter City con Resistere non serve a niente, pubblicato da Rizzoli, che aveva già vinto il premio Strega. Il Mondello funziona così. Allora, prima c'è un comitato di selezione composto da tre critici letterari che sceglie i tre finalisti. Poi, per stabilire il vincitore finale, si forma una giuria di 240 lettori qualificati che vengono un po' da tutte le parti d'Italia. E questi lettori vengono segnalati da un circuito di 24 librerie. Nei mesi scorsi, quindi, ognuna di queste librerie ha inviato alla segreteria del premio Mondello un elenco di 10 lettori forti, in grado quindi di formulare un giudizio letterario critico e ragionato. E Valerio Magrelli si è aggiudicato anche il Mondello Giovani, ossia il premio che viene deciso dalla giuria degli studenti delle scuole superiori della Sicilia. Il libro premiato, quindi lo dicevamo, è Geologia di un padre. Ne avevamo già parlato al Cacciatore di Libri nella puntata del 28 settembre scorso, anche perché il romanzo era uno dei finalisti al Campiello. Un romanzo emozionante e misurato. C'è un figlio che ricorda il padre che è morto da poco. Questi ricordi sono in ordine sparso, potremmo dire, non c'è un ordine cronologico, un senso preciso. Come ha detto lo stesso Magrelli, lui cosa ha fatto? Ha riempito un cestino con vari appunti presi nel corso degli anni. E allora ecco un estratto dell'intervista a Magrelli che trovate in versione integrale su www.radio24.it nell'archivio appunto del Cacciatore di Libri. Sentiamo. In effetti questa idea degli appunti è stata la mia guida, perché ho deciso dall'inizio di non fare un libro tematico sulla figura del padre. Quanto al resto, però, ho letto un bellissimo, forse il più bel libro di Paul Auster, che si chiama L'invenzione della solitudine e che in verità verte sulla figura del padre. Non ho voluto leggere invece Patrimonio, che so essere uno dei più bei libri di Philip Roth. Ma ecco, non volevo documentarmi, anche perché io appunto la mia professione è quella di professore universitario e dunque lavoro per anni su libri, su autori. Volevo tenere le due cose ben distinte e ho scelto come unico criterio me stesso. Io dico, seguo soltanto quello che si posa sulla carta moschicida del ricordo. Ecco, le mosche capitano sulla carta moschicida per caso, ecco, il caso è quello che mi ha guidato, anche se in verità questo mi ha permesso di far emergere, o meglio di catturare, quei punti più dolenti, più dolorosi. Inizia domani il primo talent letterario al mondo. È una sorta di X Factor dedicato a chi vuole diventare scrittore. È in onda da domani sera, domenica, su Rai 3 in seconda serata. Dicevamo appunto che il primo format di questo genere al mondo. Ne ha parlato addirittura il New York Times. L'idea potrebbe essere, ovviamente, come spesso capita in questi casi, esportata all'estero. Allora, ci sono tre giudici, scrittori naturalmente, sono Andrea De Carlo, Massimo De Cataldo e Taye Selasi. Quest'ultima forse, cioè sicuramente, è meno conosciuta dei due scrittori, appunto, di De Carlo e De Cataldo. Sono arrivati all'organizzazione di Masterpiece 5.000 manoscritti. La giuria ha scelto un gruppo di finalisti. Nelle prime sei puntate che sono già state registrate, i concorrenti verranno sottoposti a varie prove di scrittura creativa. Per esempio, non so, ci sono 59 secondi per dare una descrizione del proprio scritto, della propria opera. Bisogna scrivere il testo di una canzone o addirittura uno slogan pubblicitario. Quindi, insomma, è quasi, come dicevamo, una prova di scrittura creativa, non solo di scrittura di un romanzo. Verranno dunque identificati 9 finalisti. Altri 3 finalisti verranno votati dal pubblico sul web. Da febbraio prenderanno a questo punto il via le puntate in diretta, con un'ulteriore selezione fino ad arrivare al vincitore finale che vedrà il suo romanzo pubblicato. Marta Cagnola ha incontrato Andrea De Carlo e gli ha chiesto perché ha deciso di fare il giudice di un talent letterario. Beh, all'inizio ho avuto un sacco di dubbi, ovviamente, perché mi sembrava un'impresa impossibile. Poi però, continuando a ripensarci, mi è venuta sempre più curiosità e ho pensato che fosse un'occasione interessante e si è rivelata proprio tale. Ci sono state varie fasi, la prima è quella della lettura dei manoscritti che sono arrivati ed è quella che noi insomma vediamo a lavoro iniziato. Che cosa avete cercato in questi manoscritti? Ma noi quello che cercavamo e cerchiamo ancora è una voce originale, cioè qualcuno che abbia scritto qualcosa che noi non abbiamo già letto 100 volte, quindi che abbia un suo stile, un suo mondo da raccontare e una sua storia che sia un romanzo, perché poi non cerchiamo solo la qualità della scrittura in sé, ma anche proprio un romanzo. Dopo la lettura dei manoscritti e la scelta di questi manoscritti, il lavoro sugli scrittori. E questo come avviene? Beh, questo avviene in tanti modi. Avviene attraverso una serie di prove a cui loro sono sottoposti, nel senso che si immergono in situazioni che non conoscono, devono raccontarle. Ognuna di queste prove però serve a noi a fare delle osservazioni sulla scrittura, a tirare fuori alcuni elementi dello scrivere proprio, del raccontare e ci serve anche a conoscerli meglio, a capire i loro mondi. Credo che fra le altre cose Masterpiece racconti questi mondi, cioè i mondi delle persone che oggi scrivono. Una trasmissione dedicata a chi sogna di scrivere, ma una trasmissione che spingerà anche a voler leggere? Ma secondo me sì, anzi, intanto perché tutti questi scrittori sono lettori, cioè questo è alla base del loro voler scrivere, cioè il fatto di aver letto, come è successo a me e come è successo credo a qualunque scrittore, cioè uno entra in questo mondo perché legge, perché gli piace la dimensione del romanzo e ne viene in un certo senso risucchiato, cioè ha voglia di starci sempre, quindi io credo che chi legge sia molto interessato a capire cosa succede dietro una storia, cioè com'è che qualcuno comincia a scrivere e questo scritto si articola e diventa un romanzo. Siamo allo spazio per l'anticipazione del domenicale che sarà in edicola domani con Il Sole 24 Ore. Armando Massarenti questa volta è in trasferta, quindi non con noi direttamente in studio. Armando, quale sarà la prima pagina del domenicale domani in edicola? Ci sono degli inediti straordinari di Arthur Schnitzler, il formidabile scrittore austriaco che peraltro è stato ispiratore di moltissimi film, e qui abbiamo la trascrizione da quando lui era bambino fino al giorno prima di morire di tutti i suoi sogni, un'edizione curata molto bene da Vittorio Ligiardi e da Agnese Grieco, che è stato il saggiatore. Noi anticipiamo una decina di questi sogni e le riflessioni appunto di Ligiardi e di Grieco su quanto questi sogni e il modo in cui l'autore, peraltro di Doppio Sogno, quello che ha ispirato Kubrick, insomma, i suoi Chat, ma anche la signorina Else, la Ronda, eccetera, eccetera, tantissimi film, come questo autore straordinario pensava, diversamente da Freud, a come si interpretano e a come si raccontano i sogni. E c'è anche un importante evento organizzato dal Sole 24 Ore per la prossima settimana. Sì, è un evento legato al nostro manifesto per la cultura che avevamo lanciato un anno e mezzo fa sul Domenicale, e già un anno fa avevamo fatto gli Stati Generali per la Cultura con il presidente Napolitano. Questa volta li facciamo giovedì alle 14:30 proprio alla sede del Sole 24 Ore. Siete tutti invitati, tutti gli ascoltatori sono invitati, basta registrarsi. Ci sarà Elena Cattaneo, che è un po' il simbolo del successo che pratico che ha avuto il manifesto per la cultura, perché lei è la neo senatrice a vita, insieme agli altri tre magnifici nominati da Napolitano, rappresenta proprio il tentativo di immettere in un Parlamento, diciamo pure abbastanza scadente dal punto di vista del conoscere per deliberare, cioè dal fare riferimento alla vera conoscenza, alla vera cultura, un elemento che invece può cambiare rotta, cioè può portarci verso quello che noi auspicavamo e abbiamo continuato a insistere su questo, cioè ritornare a crescere a partire dalla conoscenza e dalla cultura. Grazie ad Armando Massarenti, responsabile del Domenicale del Sole 24 Ore, domani in edicola. E prima di chiudere ho il tempo di ricordarvi un appuntamento in corso in questi giorni, il Pisa Book Festival, naturalmente a Pisa. Domani però è solo l'ultimo giorno, però ci sarà per esempio in anteprima la presentazione dell'ultimo romanzo di Maurizio De Giovanni. Sarà ovviamente presente lo scrittore. Per sapere quali sono appunto gli ultimi appuntamenti di domani, il sito è www.pisabookfestival.com. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Fabio Cantadori. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Come sempre ci trovate su Facebook, su Twitter come Ale Teddina, e se volete scriverci il parere sui libri che vi sono piaciuti potete scrivermi a ilcacciatoredilibri@radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.